Tua cugina Rafif non poteva trovare una casa che non fosse nel centro di Tel Aviv. Lo sai che gli amici della nostra comunità sono pronti a darti una mano. Basta solamente che glielo chieda. Wissam, ne abbiamo parlato. Da Jaffa sono 2 ore di strada fino all'università. Come vuoi. Tanto è una soluzione temporanea. Ho parlato con mio zio, che ha parlato con il suo amico preside. Ha promesso di darti un posto nella sua scuola. Anche se io preferirei che tu stessi a casa. Devo aiutarti, sai che un solo stipendio non basta. Ricorda cosa dice il profeta, che la pace sia con lui. Pace e benedizione su di lui. Non impedire alle tue donne di andare alla moschea, anche se... Anche se la loro casa è il luogo più adatto. Non mi serve aiuto. Il migliore aiuto che puoi darmi è restare a casa e crescere bene i nostri figli mentre io vado a lavorare. Avrai tutto ciò che desideri comunque. Che succede qui? Signora Harrison, vorrei assistere alla riunione di oggi. E come mai? I dati cambiano molto velocemente, la capsula cambia, la massa, le zone di lancio, cambia tutto, ogni giorno. Io faccio il mio lavoro, voi assistete alle riunioni, io ricomincio da capo. Al lancio mancano poche settimane, non abbiamo ancora i calcoli esatti. E perché non può assistere? Perché non ha l'autorizzazione, Al. Per poter fare il mio lavoro in modo efficiente devo avere tutti i dati e tutte le informazioni non appena disponibili. Devo essere lì e sentire insieme a voi. Le riunioni non sono aperte ai civili, richiedono la massima autorizzazione. Io sono la persona migliore per presentare i miei calcoli. Ma intendi mollare, però? No, non mollerò. E poi hai una donna, il protocollo non ne prevede la presenza a queste riunioni. Ok, questo l'ho capito, Paul. Ma all'interno di queste mura chi è che fa le regole? Lei, signore, è lei il capo. Deve solo comportarsi come tale, signore. Some people think little girls should be seen and not heard, but I think... Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4! Ho sentito che siete state disobbedienti. Scusi, sorella. Ho solo chiesto di vedere lei. Non hai chiesto un bel niente, ragazza. Tu hai preteso. Chi in nome di Dio ti ha dato il diritto di avanzare pretese? Mi chiedevo perché sono qui, sorella. Non ho commesso nessun crimine. Non sono neanche mai stata con un ragazzo. Questa è la pura verità. Ma ti piacerebbe, non è vero? Sono una brava ragazza, io. No. Sei arrogante, sgarbata e stupida. Sarà per questo che piacevi ai ragazzi. La poca intelligenza fa sì che sia più facile infilarti le dita sotto i vestiti. Non è vero, Crispina? Sì, sorella. Che cosa ho detto? Non lo so, sorella. Che tutti gli uomini sono peccatori e dunque tutti gli uomini sono proni alle tentazioni. E in ogni paese timorato di Dio, se si vuole salvare gli uomini da se stessi, bisogna rimuovere le tentazioni. Hai capito, ragazza? Sì, sorella. Non stavo chiedendo a te. Ho capito, sorella. Sei sicura, davvero? C'erano delle parole in più, bastava una sillaba sola. Ho capito, sorella. Allora, la disobbedienza non può essere tollerata. Faccia il muro. E ora andate, tornate subito al lavoro. Una, sei diventata completamente matta? Quei capelli non ti servono più a niente. Li impacchetteremo e li venderemo a O'Brien, daremo i soldi ai negretti. Va bene? I'm like my mama, sometimes it's drama, forget the karma, might hear me holler. Reverse Madonna, that's me. My bike's a Honda, that me. Michelle Obama, that me. You feel me, holla. I'ma go just like. I'ma go just like. I'ma go just like. Yay. Skip train, don't gotta ride. All I got is my heart and my pride. Cash money for the game on the streets. The only way to hustle is to spit it on the beats. Don't fuck around when I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz. Wanna box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know. Mama, drama, karma, might hear me holler. I'ma go just like. What? I'ma go just like. I don't give up. I'ma go just like. What? I'ma go just like. I don't give a fuck. Hey. Skip train, girl by my side. No. Red lights flash, so we run and we hide. Home girl got her head in the books, and I translate words with my bars and my hooks. Hey, start, hey. Don't fuck around when I come through with the verse and the sound and the hacks and the biz. When I box on my flow, but I don't give a fuck. I'm the shit and I know. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. Don't give a fuck. I'm the shit. I'm like my mama. That's me. Sometimes it's drama. That me. Forget the karma. That me. Might hear me holler. Reverse Madonna. That's me. My bike's a Honda. That me. Michelle Obama. That me. You feel me holler. I'ma go just like. What? I'ma go just like. I don't give up. I'ma go just like. What? I'ma go just like. I don't give a fuck. Bra, bra. I don't give a fuck. In quel periodo così sereno, Thérèse venne violentata. Da Pippe. Salve, stasera offro io. Da bere per tutti. Che devi festeggiare? Va meglio? Sì, sicura. Dormi un po'. Thank you. Alzati. Vieni fuori. È svelto. Fermo. Ragioniamo, aspetta. No. Non fiatare, zitto. Se ti muovi, sparo. Se fossi capace di uccidere qualcuno, ucciderei te. Non riesco a ucciderti, ma posso maledirti. E la mia maledizione ti perseguiterà per tutta la vita. Sta zitto! Se provi a tornare qui, la mia maledizione ti strazierà. La mia violenza ti farà a pezzi. Se provi a tornare qui, il mio odio ti distruggerà. Ti si spezzeranno le ossa, i denti ti si spaccheranno, la lingua ti marcirà in bocca. Se provi a tornare, l'acqua che berrai ti avvelenerà il sangue. Il cibo che mangerai si decomporrà dentro di te. L'aria che respirerai ti imputridirà i polmoni. Implorerai invano di essere liberato dal tormento, sarà la tua punizione. Che tu sia maledetto per aver violentato una bambina. Listen up, voices scatter, listen up, listen up, listen up, voices Tesoro, finiscila di sbaciucchiare il cane. Si ubriacherà. Ma è lei che mi bacia. Mi fai leccare sulla lingua, è disgustoso. E Baudelaire cosa pensa? E io sarei Baudelaire? Sì. Di cosa? Dell'unione della sinistra. Che ne pensi? Vabbè, Baudelaire non ci pensa. Mi sembra anche ovvio, lui non paga le tasse. Antoine, sii gentile con tuo fratello. No, però bisognerebbe smettere di far votare le persone che non fanno niente per la nostra economia. Io ti adoro, Victor, ma finché non lavori... Perché dici che non lavora? È che lui non fa un vero lavoro. Ma non lo tormentate, Victor è uno che non lavora nel campo degli affari. Sophie invece non lavora proprio. Sì, ma per Sophie è diverso. Perché? Perché lei è una donna. Ah. E allora? Lei è femminista? Non lo so. Lei? Lei ha un nome anche se è una donna. Ah, l'ho forse offesa? Oh no, non mi ha offeso per niente, ci vuole ben altro. Ah. Comunque, complimenti per il tacchino, delizioso. Devi dirlo a Filomena, di là in cucina. E l'ha lasciato in cucina la sera di Natale? Sì, perché le crea forse un problema? Papà, ti prego, papà, per favore, cambiamo argomento. I suoi genitori mi accolsero come una figlia. Vedrai che questi comunisti finiranno col dettare leggi a casa mia. Claude! Non sono padrone a casa mia? Non lo so. Le chiedo scusa, era solo una domanda. Oh, io la perdono con molto piacere. Il vantaggio per le belle donne è che, anche se dicono un'enorme castroneria, la rendono quasi seducente. È strano sentirlo, perché io penso lo stesso degli anziani. Quando dicono delle stronzate sono molto teneri. Di Sua Maestà, sono fra voi stasera. Sì, so che avete fatto dei sacrifici per venire qui. Molte di voi, lo so, si sono allontanate da quella che era la loro vita. Eppure stasera sento il vostro entusiasmo. Per 50 anni ci siamo adoperate pacificamente per ottenere il diritto di voto. Ci hanno derise, picchiate e ignorate. Ora ci siamo resi conto che fatti e sacrifici devono essere all'ordine del giorno. Lottiamo perché un giorno ogni bambina venuta al mondo possa avere le stesse occasioni che hanno i suoi fratelli. Non sottovalutate mai il potere che abbiamo noi donne di essere artefici del nostro destino. Noi non vogliamo violare la legge. Noi vogliamo fare la legge. Sì! Siate combattive in qualunque modo possiate. Chi fra voi può rompere una vetrina, lo faccia! Chi fra voi può attaccare ulteriormente il sacro idolo della proprietà, lo faccia! Non ci hanno lasciato alcuna alternativa, a parte sfidare questo governo. Se dobbiamo andare in prigione per ottenere un voto, che siano le finestre del governo e non i corpi di noi donne a rompersi. Andiamo su, Petromont, dai, andiamo! Io istigo questa assemblea e tutte le donne d'Inghilterra alla ribellione. Io preferisco essere una ribelle che una schiava. Esattamente di cosa sto parlando. Se io smettessi di fumare, di vestirmi come mi pare, di divertirmi facendo tardi la sera, tu a cosa rinunceresti, Ziad? Pensi di vivere in Europa? Taipei non è l'Europa. Come dice il proverbio, vestiti come vuole la gente, ma mangia ciò che vuoi tu. È questa la nostra realtà. E cosa succede se mangio quello che voglio e mi vesto come mi pare? Eh? Per te è troppo? Tu credi di poter cambiare il mondo in un giorno? Ti do una notizia. Non ci contare. Non succederà. Perdi solo tempo. Ziad, posso dirti solo una cosa? Io non cambierò mai il mio stile di vita. Quindi o mi accetti come sono, oppure finita.